9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno, guarda moltissimo. Proprio guardi, io dico che a questo punto l'unica cosa è la secessione. Adesso è ora di andare alle elezioni. Io credo che l'unica alternativa sia quella di rottamare questo governo prima che il governo rottami la Lega. Secondo me ormai Berlusconi, volente o nolente, è il blocco del federalismo. Ecco, è arrivato il momento di togliere la spina. A questo punto basta, non se ne può più. Coraggio, Bossi, stacca, stacca. Padania liberissima. Berlusconi, game over. Eccoci cari ascoltatori, abbiamo esordito direttamente con alcuni brani e siamo stati appunto molto brevi per darvi il quadro delle diverse opinioni che da diversi giorni su Radio Padania compongono una parte, per così dire, del palinsesto quotidiano, le reazioni degli ascoltatori della radio di riferimento della Lega di fronte a l'impasse, la situazione complicata avvenutasi a creare con la serie di colpi di scena la scorsa settimana di fronte al quarto decreto attuativo della legge delega, la legge 42 sul federalismo fiscale. Il federalismo fiscale è la bandiera da sempre, da tanti anni della Lega. Su questo quarto decreto, dopo quello sul federalismo demaniale, quello dei fabbisogni standard degli enti locali, dopo quello di Roma Capitale, si è entrati insomma in uno dei due pilastri fondamentali nel fisco municipale, e poi il prossimo all'esame della commissione bicamerale attuativa della delega dovrebbe essere quello per regioni e province. E sul fisco municipale alla fine è finito, come sapete, 15-15, secondo la legge, i regolamenti, perdonate, parlamentari in caso di bicamerale per una delega, legge delega, 15-15 non passa. Di fronte al fatto che però il parere previsto sia solo consultivo, il governo ha adottato la sera stessa in Consiglio dei Ministri il testo del decreto che comprendeva però le modifiche che avevano ottenuto l'ok dell'ANCI e dei comuni, sia pur essendosi arroventata l'atmosfera, il no deciso e secco di tutte le opposizioni che speravano su questo per l'ennesima volta buttare giù il governo e indurre la Lega a sfilarsi. Il governo adotta la sera stessa in Consiglio dei Ministri quel testo, ma di fronte al fatto che il Quirinale non è stato informato del Consiglio dei Ministri, tra l'altro io ignoravo, il Quirinale deve essere informato preventivamente dell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, per la prima volta abbiamo visto emergere, perdonatemi, in una comunicazione ufficiale del Quirinale questa novità che mi è ignota e vi sottolineo, perché vuol dire che come al solito poi in Costituzione ci sono scritte delle cose, nella legge ci sono scritte delle cose, la prassi è un'altra, ma in sostanza il rilievo del Quirinale al governo è stato quello per il quale l'iter dei decreti attuativi di una legge delega prevede che è vero che la commissione sia consultiva, però in quel caso il Quirinale dice che bisogna tornare con il testo originale del governo alle Camere, questo non è quello del governo, e con un messaggio che spieghi alle Camere eventuali modifiche o comunque la posizione del governo per procedere. Così non è stato, avete sentito qual è stata su un ampio spettro diversificato le posizioni, la reazione a Radio Padania di una parte degli ascoltatori leghisti. Noi ci poniamo oggi il problema di ordine distinto. Primo vorrei sapere anche da voi che siete in ascolto come la pensate, da quello che avete capito di questa parte del fisco municipale e di quello altrettanto importante del fisco regionale che entrerà all'esame tra pochi giorni, se siete soddisfatti, se pensate che sia abbastanza in termini di una battaglia così importante e significativa che doveva essere volta a restituire al nord almeno una parte di quell'enorme distanza tra ciò che lo Stato chiede ai cittadini pro capite e ciò che gli dà in cambio, mentre riversa il più, come sapete, ad appianare le medie della spesa pro capite nelle regioni meno efficienti, meno ricche, più sprecone, più dilapidatrici, mentre questa ipotesi a me sembra vi lascerà comunque insoddisfatti, perché nella trattativa, proprio per rispondere alle accuse volte per tanti anni alla Lega, trattative volte a coinvolgere l'ANCI, la Conferenza Stato-Regioni, anche le più distanti autonomie in termini di efficienza e di efficacia di gestione delle loro risorse, quindi proprio per non prestare il fianco a queste accuse, la Lega è diventata istituzionale, è diventata responsabile, ha assunto un atteggiamento, si è visto, il ministro Calderoli si è fatto concavo e convesso in tutti i modi per dimostrare di avere un atteggiamento di grande responsabilità istituzionale. D'altra parte questo significa anche che poi i meccanismi concreti di queste norme saranno un po' distanti da quel grande recupero che si aspettava a regioni come la Lombardia e come il Veneto. Eppure tutto questo ancora non riesce a passare. Allora la domanda è: vale la pena insistere su norme scritte così? Oppure non vale la pena, e bisogna prendere atto che per l'ennesima volta, come già ricordate in occasione della riforma costituzionale che poi fu respinta nel referendum alle elezioni successive alle elezioni del 2008 e rimise il pallino a zero, lo rimise a quel titolo quinto della Costituzione che il centrosinistra approvò con pochissimi voti alla fine di una legislatura, alcune legislature fa, tre legislature fa, e non bisogna per l'ennesima volta, dico, tornare indietro e prendere atto del fatto che non passa questa cosa. Il problema di fondo è che se la vedete così c'è poi la crisi dell'Europa che arriva. Nella crisi dell'Europa gap così profondi come quelli che restano tra una parte del paese che resta in cima alle regioni europee, alla testa delle regioni europee, anzi come oggi per il nord e il nord-est, in termini di sviluppo, di produzione industriale pro capite, di produttività, e il resto del paese, non è affatto detto che poi la crisi dell'Europa non ci costringa a fare il bis del Belgio, per essere chiari, su scala più ampia, perché ci sono logiche che poi non si tengono, e le logiche sono quelle di differenziali troppo forti per resistere. Allora, tutto questo blocco di domande, che implica anche come la pensate ovviamente su questo livello di operatività residuo del governo Berlusconi, soprattutto rivolto agli ascoltatori del nord, e queste sono le domande che io faccio ai tre ospiti di oggi che immediatamente vi presento. Abbiamo con noi Matteo Salvini, che è deputato europeo della Lega Nord e presidente del gruppo consigliere della Lega Nord a Milano. Grazie e buongiorno a Matteo Salvini. Buongiorno a voi e scusatemi per i rumori, ma sono in treno. Benissimo, poi abbiamo Gilberto Neto, che è direttore editoriale dei Quaderni Padani, editorialista del giornale. Buongiorno Neto. Buongiorno Giannino, buongiorno a tutti. E Gianluigi Paragone, che è conduttore dell'Ultima Parola su Rai 2. Buongiorno Paragone. Buongiorno. Io inizierei proprio da Gianluigi Paragone, perché ovviamente rispetto a Salvini Neto, diciamo, è un battitore libero che conosce il mondo della Lega nel profondo, è un ex direttore della Padania e contemporaneamente, facendo il nostro mestiere, può andare sinteticamente più a nocciolo. Le tre domande che ti faccio sono: vale la pena continuare con decreti scritti così? Uno. Due. Come la pensa la Lega, a cominciare da il leader e lo Stato Maggiore? Poi vedremo dopo le reazioni alla base. Tre. Vale la pena insistere sull'operatività del governo? Dico dal punto di vista dei leghisti, secondo te, come la vedi? La vedo così, l'ho scritto anche oggi su Libero. La Lega Nord compie 20 anni, doveva essere questa la rivoluzione culturale, istituzionale, per cui Bossi, quella volta Pieve Emanuele, decise di unire le varie leghe nazionali, la Lombarda, la Veneta, il Piemontese e quant'altro, per arrivare a questo scritto, questo federalismo? Secondo me no. Punto secondo, perché alla Lega si deve sempre chiedere un esame del sangue suppletivo? La Lega ha già dimostrato di essere dentro le istituzioni e dentro la politica, lo ha fatto prendendosi voti per sé e accettando anche quelli degli altri dentro una coalizione che comunque aveva indicato nel federalismo le esigenze del paese. Il federalismo, è bene che tutti se lo mettano in testa, è un qualcosa che serve al paese. E non si può più andare avanti per i motivi, tra l'altro, che tu hai pienamente e abbondantemente accennato, tra cui quello dell'Europa, il riferimento al Belgio, il riferimento a economie assolutamente non comparabili all'interno del sistema paese Italia. Quindi il federalismo è una necessità. Ma il federalismo ha una sua grammatica, o si parte col piede giusto oppure è inutile. Secondo me il piede giusto poteva essere anche il testo del professor Piero Giarda, che poteva culminare con una autonomia statutaria da parte delle regioni. Questo era già messo nero su bianco, perché per esempio la regione Lombardia questa facoltà è stata preclusa, per fare un federalismo che in qualche modo mettesse in bolla nord e sud. Non si può fare. Il nord e il sud non possono essere messi in bolla, perché altrimenti a pagarne è ancora la parte più produttiva del paese. Terza e ultima considerazione, e la rivolgo, diciamo, a chi la pensa come Napolitano, che raccogliendo i festeggiamenti, gli umori dei festeggiamenti dei 150 anni del paese, continua a dire attenzione alle pulsioni separatiste. Quando anche ci fossero queste pulsioni separatiste, e ci sono nel paese, poco male, abbiamo sopportato un partito comunista che guardava l'Unione Sovietica come la Mecca. Se qualcuno ha voglia di pensare che esiste o è possibile un altro paese, lo si può fare come istanza politica e culturale. Basta con questa roba qua che è un attentato, sono degli untori coloro che parlano di autonomia e di secessione. È un'idea politica, ha diritto di vivere, anche perché poi spetta la democrazia attraverso il voto decidere quali idee hanno successo e quali no. Considerazione prima di fare le stesse tre domande a Matteo Salvini. Noto paradossalmente che proprio la punta di lancia del fronte che è pronto ad accusare la Lega di intolleranza, di xenofobia, di essere un partito della destra estrema, eccetera, eccetera, cioè nell'ambito mediatico Repubblica, è contemporaneamente quello che all'indomani della reazione non esplosiva da parte della Lega di fronte al no di Napolitano e di fronte al voto 15-15 della commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo, scrive su Repubblica la Lega democristiana, l'anima romana della Lega. Insomma, da una parte si descrive dalle stesse tribune e con le stesse firme la Lega come un manipolo di briganti pressoché simili ai nazisti, dall'altra gli si dice siete democristiani. Questo lo dico perché a me colpisce e mi sembra che li levi significato tanto al primo che al secondo, alla seconda considerazione. Sono un po' brutale, ma mi sembra che i media abbiano una grande responsabilità in questa atmosfera curva sud e curva nord, che non aiuta oramai più quasi nessuno a capire il merito dei problemi, come funziona poi l'autonomia data ai comuni, su quale quote di tributi e così via, tant'è vero che a volte ho l'impressione che sia diventato pressoché superfluo parlarne, e mi interrogo naturalmente su un paese di questo tipo. Salvini, alle tre domande che ho fatto prima, la sua risposta qual è? Secondo da leghista e da milanese, quello che si sta votando con fatica è un punto di partenza e non un punto d'arrivo. Se lei mi chiedesse se è per questo che da 20 anni milita nella Lega Nord, no. Però le valanghe nascono da una palla di neve, quindi questa è una bella palla di neve che, e vediamo che fatica sta facendo a sorgere, quindi se questo è il punto di partenza per far capire ai cittadini quanto sia meglio una gestione attenta, trasparente e federale, ebbene a Milano si dice piuttosto che niente, ma piuttosto, e quindi prendiamolo come punto d'arrivo. Seconda risposta, quindi il governo da questo punto di vista, se cadesse stamattina, ci rifarebbe cominciare da capo, come al gioco dell'oca, tu sei alla casella 45, se fai saltare la partita e ricominci a giocare e riparti da zero. Per carità, tutto può essere, però sicuramente si perdono altri mesi preziosi, non tanto per la politica quanto per chi fa impresa e per chi lavora, che si accorge, tocca con mano quanto alcuni paesi stranieri siano più avanti e quanto l'Italia sia indietro. Ultima domanda, le reazioni della base della Lega, ma io quando sono in macchina faccio zapping in autoradio fra Radio Padania e Radio 24, noi abbiamo i microfoni aperti dalla mattina alla sera, è chiaro che il fatto che la consapevolezza che questa settimana l'argomento principale probabilmente sarà se c'è o non c'è la foto di Berlusconi nudo e se ci sono altre dichiarazioni o intercettazioni di gente in entrata e in uscita da Arcore, non può che irritare o preoccupare, soprattutto preoccupare direi, perché ripeto, quando stiamo entrando nel nocciolo del problema, quando stiamo decidendo che una siringa deve costare 5 centesimi a Milano, non può costarne 50 a Reggio Calabria, parlare delle foto del Premier distrae, complica, perché appunto ci sono le due curve. In commissione in Parlamento non si vota pro o contro il federalismo, non si parla di addizionale IRPEF, di lotta all'evasione fiscale, si parla di Arcore, e quindi il voto non è pro o contro il federalismo, non è pro o contro il nostro futuro, ma è pro o contro chi esce e entra da Arcore, quindi la preoccupazione mi sembra chiara ed evidente. Allora, i primi sms agli ascoltatori sono un po' differenziati, devo dire che ci sono parecchi simpatizzanti o elettori della Lega che riconoscono che insomma non era tanto per questo alla lettera ovviamente l'impegno della Lega in tanti anni, però contemporaneamente quello che in tanti anni non è mai venuto meno è il no tenace e ostile a qualunque meccanismo di federalismo vero con livelli di autonomia autonomia istituzionale vero, questo per esempio in sintesi, ma è l'opinione di Gilberto da Bergamo. Altri che dicono invece no, più tasse per tutti con questo finto federalismo, ha ragione Baldassarre, sono rimasto molto deluso soprattutto per la parte dell'IMU, cioè l'imposta municipale, che riguarda l'aumento della pressione fiscale sui beni mobili strumentali per piccole imprese e artigiani. Questa è una questione sulla quale l'opposizione sta molto tenacemente calcando il piede e che secondo me avrà un certo impatto nel dibattito politico. Dopodiché vediamo qualche altro ascoltatore. L'unica soluzione è la secessione e il ripristino della posizione dura, non c'è via d'uscita, questo è Gianni da Brescia. Il federalismo deve essere prima politico e poi di conseguenza fiscale, la Lega deve democraticamente spingere per una vera autonomia tornando a una versione più dura. Devo dire che anche qui, come vedete, quindi dagli SMS c'è una reazione composta, ma che però è fatta da simpatizzanti o elettori della Lega che dicono insomma piuttosto che accettare l'annacquamento torniamo a, non abbandonando la via istituzionale di portare a casa qualche si può, ma torniamo a una versione un po' più corrusca, più energica, più muscolare, mettiamoci a fianco una tra virgolette per capirci pistola politica. Che ne dice Oneto? Io dico, Paragone ha detto una sacrosanta verità, in questo paese il federalismo è assolutamente necessario, altrimenti andiamo tutti a gambe levate, i numeri ce lo confermano. Però c'è un'altra, altrettanto sacrosanta verità che non va dimenticata, perché è un po' sotto traccia, soprattutto in questi periodi di festeggiamenti del 150esimo. La verità triste è la seguente: l'Italia, lo Stato Italia, non può che essere centralista, non può che essere così. E ne sono perfettamente consapevoli tutti i difensori, i grandi patrioti italiani, e infatti fanno di tutto per fermare qualsiasi riforma, anche le riforme più piccole, anche quelle che potrebbero portare un piccolo sollievo. C'è gente che è disposta a fondare nuovi partiti pur di fermare la riforma. E in questo senso la pur piccolissima cosa del federalismo fiscale, io non smetterò mai di ripeterlo, ma non per polemica, ma per fare chiarezza, cioè si chiama federalismo fiscale, ma di federalista ha veramente poco in termini, diciamo, dottrinali del federalismo, però va bene anche questo, va bene, io l'ho paragonata alla ghianda dell'animalino dell'era glaciale, no? La ghianda piccolissima che infilata in una piccola crepa può creare il cataclismo, il rivolgimento totale. Gli altri lo sanno bene ed è per questo che fermano tutto, fermeranno tutto, anche questa volta lo faranno. Quindi ha ragione chi ritiene che non c'è speranza da questo punto di vista, non importa quanto piccola o quanto anche, uso brutto termine, camuffata può essere la proposta di riforma, gli altri lo capiscono perfettamente, per loro è una questione di vita o di morte, la fermeranno sempre. La frase piuttosto che niente, meglio piuttosto, va benissimo, però sono 20 anni che noi riempiamo magazzini di piuttosti e questa cosa non ci porta granché. È interessante vedere come in queste ultime settimane, nell'ultimo mese, due deputati sudtirolesi, astenendosi in un paio di elezioni o uscendo dall'aula in qualche altra occasione, hanno ottenuto dal governo centrale dei benefici della propria provincia. Il Parco dello Stelvio e quella storia sui monumenti. Monumenti, sì. Che è poca cosa, però che a livello simbolico è enorme. Sta accendendo enormemente l'attenzione dei media esattamente in Trentino Alto Adige, sì. Esatto, allora questa è la prova che giocata bene l'operazione anche dall'esterno può portare dei benefici. L'altro esempio che mi sento di fare è la Catalogna. In 20 anni i catalani, senza mai entrare nel governo spagnolo e standosene sempre fuori e con numeri elettorali decisamente inferiori sul piano nazionale a quelli della Lega, hanno ottenuto, non evidentemente l'indipendenza dalla Catalogna, ma una serie di benefici e autonomie che noi non ci sogniamo neppure. Ecco, allora il punto vero alla fine di tutto questo che voglio dire è Lega di lotta e Lega di governo non funziona. È un po' come non si può servire Dio e Mammona, ecco, la Lega deve prendere una decisione, se continuare anche appoggiando i governi a combattere la sua lotta in termini autonomisti sul territorio, perché è da qui che si parte, Non dimentichiamo che nel programma elettorale della Casa delle Libertà, al punto 6, c'era in termini di federalismo l'approvazione della proposta di legge che è stata approvata dal Consiglio regionale della Lombardia nel 2007. Ricordiamo che appunto quel federalismo differenziato che consentiva alle regioni di andare avanti su alcune materie regione per regione, poi è stato fatto cadere, quello a cui si riferiva appunto anche Paragone nel suo intervento. Assolutamente, questo era il programma della Casa delle Libertà, programma sottoscritto oltre che dalla Lega e da Berlusconi, peraltro non è stato portato avanti, ma sottoscritto anche da Bocchino, da Fila, questa gente qui. Cioè, qui ci troviamo di fronte al palese non rispetto della parola data, della promessa fatta agli elettori. Quindi a questo punto la Lega deve veramente sciogliere questo nodo di lotta e di governo, che dovrebbe diventare Lega di lotta e di governo locale, secondo me. Ok, è chiaro che la risposta di Onetto è con più libertà rispetto a quella di Paragone e soprattutto di Salvini. Dice, guardate, qui c'è un bilancio da trarre, mettiamoci alla testa dei voti che abbiamo nelle parti del nord, in cui siamo fortissimi, molto più forti che altri autonomisti, che pure hanno tenuto moltissimo dai governi, e su questo mettiamoci a trattare, perché prendiamo atto dopo 20 anni che qui faranno qualunque cosa, purché non passi neanche questo minimo di autonomia finanziaria locale, perché questo, di questo si tratta. Anche se vi segnalo ancora una volta, ho trovato del tutto irrituale un altro segno dei tempi, che il presidente della Corte Costituzionale attuale, che oramai commenta, rilascia dichiarazioni ogni giorno, anche lui preso dall'impulso di entrare nel circuito mediatico, fino a questo momento i presidenti della Corte Costituzionale ce l'avevano risparmiato, con la presidenza del professor De Servo siamo anche a quello, naturalmente ha detto ma questo è mica federalismo. Allora, un presidente della Corte Costituzionale è diventato anche lui un attore del circo mediatico italiano, mi pare un altro segno dei tempi. Detto questo, pubblicità e poi andiamo con le telefonate degli ascoltatori e i commenti dei nostri ospiti. Eccoci tornati in studio, iniziamo con alcune telefonate. Antonio ci chiama da Cremona, prego Antonio. Buongiorno. Dica. Io volevo esprimere due pensieri, due concetti semplici. Il primo è questo: mi sono riconosciuto in questo movimento, in questo partito che è la Lega, per una serie di cose di cui è inutile dibattere, le conosciamo, ma alla fine della suonata, nel senso che rivedendo con il senno di poi quanto è successo il percorso, oggi io non mi riconosco più in questo partito, ma e non mi interessa più neanche il federalismo. Oggi il leghista, quello che crede davvero in qualcosa che riguardi la località, il localismo, la località dove vive, deve pensare a difendere il proprio onore, perché la collaborazione con il PDL ha rappresentato la disonorabilità della Lega. Beh, dice, questo viene prima rispetto che portare a casa... Assolutamente sì, oggi non abbiamo credibilità, abbiamo dei... Io scrivo tutti i giorni sul sito della Lega e non mi viene pubblicato neanche un concetto, anche quelli più voglio dire più tranquilli tra virgolette, insomma. Ho capito. Quindi io non mi riconosco più in questo movimento. Va bene, questa è un'istanza presente evidentemente, perché poi i giornali hanno scritto molto delle pressioni della base, di chi la pensa come lei all'interno della base leghista, dicendo con questo Berlusconi, il suo stile di vita, rubacuori, noi non c'entriamo, non possiamo più entrarci. Dall'altra parte c'è anche nella Lega chi dice sì, d'accordo, non illudiamoci che un centrodestra senza Berlusconi avrebbe nei magistrati... orecchi meno attenti e vita più facile. Sentiamo come la pensa Alberto, che chiama dalla provincia di Venezia. Prego Alberto. Eccomi, buongiorno. Ma guardi, io sono iscritto alla Lega Nord dal 1995. Sono militante, ho fatto il segretario, sono amministratore di un comune in cui governa la Lega. Vede, Giannino, quando io non riesco ad assumere due persone nel mio comune che lavoravano con me, con noi, da 5 anni con svariati tipi di contratto. E poi vedo che in altre parti d'Italia dissipano anche i miei soldi, i soldi anche di quelli che non riesco ad assumere, assumendo i 6.000 in Sicilia, i forestali in Calabria, ci sono più alberi che forestali. Vede, noi amministratori della Lega facciamo fatica poi ad andare a spiegare ai nostri elettori e a tutta la gente che vede nella Lega una salvezza, vede nella Lega un futuro, vede nella Lega una prospettiva. E che rispondere, che fare? Noi che cosa possiamo fare? Possiamo dire solamente una cosa, possiamo dire smettiamola con questo Stato che non è più lo Stato centralista che può risolvere il problema, smettiamola con la matrigna Italia. Noi vogliamo una madre che è la Padania, che accolga i propri... Quindi lei dice, se diventiamo, torniamo hardliner, torniamo secessionisti. Siamo secessionisti, se è il caso. Grazie anche ad Alberto, come vedete, punti di vista parecchio diversi. Cesare da Milano, come la pensa? Buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità. Io sono un federalista convinto e purtroppo però devo ammettere che non sono stati creati i presupposti per questo federalismo. Federalismo per grosse sciabolate, tra le altre cose, significa trattenere sul territorio quanto è stato prodotto. Allora, facciamo i conti, io ho fatto i conti. Il gettito tributario 2009, sono dati ufficiali, è stato di 409 miliardi. Se a questi noi decurtiamo 80 miliardi di pagamento degli interessi del debito pubblico e 60 miliardi di ripianamento dei costi previdenziali, siamo a 269 miliardi. A questi dobbiamo ulteriormente sottrarre il costo dei ministeri, e parlo del bilancio di previsione 2011, dati del Ministero dell'Economia. Io ho fatto i conti, 187 miliardi il costo dei ministeri che comunque rimangono al centro. Parlo di giustizia, affari esteri, interno, difesa, istruzione, eccetera. Siamo a 82 miliardi. La devo fermare perché naturalmente per correttezza bisogna ricordare che quelle sono spese imputate dai ministeri, la larga parte della quale però poi sono spese che vanno sul territorio. Questo non dimentichiamocelo. È giusto imputarlo nel bilancio dello Stato, le spese dei ministeri sono centrali, non è che naturalmente il ministero di giustizia spende a Roma. Però andiamo avanti nel suo ragionamento, solo per appuntarcelo sulla lavagnetta. Dica. Comunque, poi dobbiamo togliere il fondo di perequazione, i costi del Parlamento, presenza del pubblico e quant'altro. Cosa rimane sul territorio? Poco o niente. Quindi non si può fare federalismo con questi presupposti. Lei ha ragione, io non è che posso dire di no. L'impianto che è stato adottato per avere il maggior consenso possibile, ne abbiamo parlato anche in tanti dibattiti organizzati sul territorio con Luca Ricolfi in questi ultimi mesi, che è molto critico, io condivido molto delle sue critiche, è un impianto il cui effetto concreto non è quello di recuperare al più delle regioni del nord il più, ma neanche una quota molto significativa del divario tra gettito pro capite, ciò che lo Stato ti porta dalla tasca via, e interventi pro capite pubblici. Non funzionerà così. Ciò malgrado, questa roba viene dipinta da una parte come attentasse al paese, perché i motivi per cui è stato detto no da coloro che per mesi hanno seduto al tavolo trattando le modifiche, più o meno resta questo, e dall'altra invece viene poi respinto come inadeguato e insufficiente. Ed è la storia italiana di sempre: quando si tratta di mettersi d'accordo su regole fondamentali, l'atteggiamento prevalente resta quello della delegittimazione reciproca, della furberia. Si dice il terzo polo ha detto dateci un altro anno, quanti altri millenni? Perché l'atteggiamento deve essere sempre rinviamo a babbo morto, cioè nella speranza che muoia l'interlocutore che c'è dall'altra parte del tavolo e io domani resti solo a fare le regole? A me sembra questo, mi sembra una classe politica, devo dire anche chi obietta abbastanza abietta, non solo obietta. Questa è la mia impressione. Sentiamo ancora Giuseppe che ci chiama da Pisa, non solo del nord, ascoltatori. Prego Giuseppe. Buongiorno dottor Giannino, buongiorno a tutti. Io le faccio alcune premesse. Primo, sono un elettore del centro-sinistra. Secondo, sono di Reggio Calabria. Ho trasferito qua a Pisa alcuni anni fa la mia famiglia per motivo di studio dei figli. Terzo, non credo nei politici attuali. Passiamo alle proposte. Sono convinto che il federalismo, sono un federalista convinto dalla prima ora, le ho già detto. Sono convinto che il federalismo possa essere non tanto negli interessi delle popolazioni del nord, ma soprattutto debba essere fatto negli interessi della popolazione del sud, ma non questa bozza di federalismo, deve essere fatto un federalismo tosto all'americana. Perché dico può essere una panacea per le popolazioni del sud? Perché vede, le popolazioni del sud è gente che lavora, è gente capace, è gente onesta, tranne quell'uno per mille di mafiosi. Quelli che io non vedo sono i politici. Io ci ho vissuto 50 anni a Reggio Calabria, ho girato la Calabria in lungo e largo e le posso dire che il sud lo rovinano i politici. Probabilmente i politici messi alle strette con le risorse si vedranno costretti ad amministrare meglio la cosa pubblica. Questa è la mia speranza da sempre, però come vede non ci si riesce, questo è il piccolo problema, perché anche con questo impianto, che ha un orizzonte temporale, quando anche venisse alla fine adottato in questa legislatura, che ha un orizzonte temporale di qui al 2019, per essere chiaro, 2019, l'impianto di fondo è quello di ottenere un regime sì di minore opacità, questo non c'è dubbio, di responsabilità per quote parte del bilancio un po' più diretta da parte degli amministratori, ma non è un orizzonte nel quale l'obiettivo programmatico dichiarato, come io speravo, è quello di ridurre la spesa e dunque la pressione fiscale, bensì gli obiettivi dichiarati sono quelli della permanenza degli attuali livelli di spesa e di pressione. E questo è il punto. E in Italia noi dobbiamo sapere, alla luce delle serie storiche della finanza pubblica, che quando l'obiettivo che si dichiara è quello di far permanere livello di spesa e attribuzione complessiva quantitativa di risorse, cioè pressione fiscale, questo obiettivo di solito significa, ohimè, il contrario. Ecco perché in parole povere in Italia si riesce a fare stare ferma in termini nominali, non reali, la spesa pubblica solo quando si dichiara di volerla comprimere, e già lì si fa molta fatica, visto che è avvenuto 3 sole volte a livello nazionale in tutto il secondo dopoguerra. Quando si dice no, rimaniamo fermi, vuol dire che avanza. Questa è la mia preoccupazione di fondo, e sulla quale facciamo l'ultimo giro dei nostri 3 ospiti dopo le informazioni sulla circolazione stradale. Allora, una raffica di sms, Bossi deve tirare fuori le palle. Diciamo che gli ascoltatori leghisti ci hanno risposto molto, perché sono veramente tantissimi, e il più è ispirato alla preoccupazione più che alla convinzione che valga la pena insistere. Come può, alla luce di come conosce la leadership leghista, Bossi e tutta la prima fila, ma anche quella che si è creata in questi anni sulla trincea della buona amministrazione, per come conosce la Lega, Paragone, come reagirà il vertice a questa nuova difficile circostanza, rispetto al fatto, l'abbiamo toccato con mano anche oggi, che non è vero che la gente non capisce e non sa poi come funziona e quanto sia distante questo tipo di normativa rispetto all'obiettivo? C'è gente che dice affianchiamoci comunque un atteggiamento di ritorno corrusco al secessionismo, c'è chi come Oneto dice ma facciamo come i catalani che hanno ottenuto molto di più senza occuparsi della vicenda di Roma. Come pensa sarà, secondo lei, la reazione del vertice della Lega? Ma io credo che Bossi utilizzerà questo suo compleanno della Lega Nord per tornare in piazza a parlare, ma soprattutto utilizzerà il malessere del Nord, la pancia del Nord, la rabbia del Nord, per scaraventarla sul tavolo di Roma e dire: signori, la sabbia nella flessibilità del centralismo sta finendo, ve ne rendete conto oppure no? Io ormai non sono più il titolare, il portavoce di un'istanza parlamentare ed elettorale mia, ma sono, come ha detto felicemente Maroni una volta, il sindacato del Nord, di tutto il Nord, di un Nord che a volte oscilla tra Forza Italia e Lega, ma che comunque era quella roba là, che nelle punte estreme va fino alla secessione, nelle punte intermedie vuole, esige un federalismo. Quindi da questa cosa qua a Roma la devono capire. Bossi è l'unico, secondo me, in grado di portare una sintesi politica. O ascoltano Bossi non tanto come leader della Lega, ma come capo di un sindacato locale di distanza nordista, oppure davvero, secondo me, le conseguenze rischiano di essere gravi. Lo ha scritto Illy nel suo libro Così perdiamo il Nord, ha detto: attenzione alla secessione politica, perché la secessione delle industrie, la secessione del capitale è molto più pericolosa, e questa non ha bisogno del timbro di Roma, quella la stanno già facendo gli imprenditori. E noi ce ne siamo occupati proprio nella puntata di venerdì, facendo parlare il rappresentante dell'agenzia che si occupa di offrire occasioni alternative molto migliori in Svizzera. Io devo dire la verità, di fronte all'alternativa di chiudere, di fronte alla rapina fiscale di questo Stato ladro, non so dire agli imprenditori che è meglio chiudere gemendo col tricolore in mano, gli dico che è meglio andare dove lo Stato è in grado di fare con molto meno, molto meglio, perché questa è la vergogna scandalosa di questo Stato che resta, mi dispiace, mi assumo la responsabilità, ne levo i miei ospiti di mezzo, resta ladro ai miei occhi, ladro. Ecco, questo è il punto, lo dico a tutti gli ascoltatori che stanno dicendo una trasmissione unilaterale, ospiti solo che sono diverse declinazioni più o meno della Lega. Sì, perché il problema riguarda in questo giorno, in questa puntata, loro, ed è giusto approfondire con loro. Poi faremo altre declinazioni di cosa vuol dire, per esempio, per l'ennesima volta il PD che dimentica tutta la parte nordista, perché questo è appena avvenuto all'assemblea del PD, con tanto di sindaci e amministratori del PD del nord che dicono: di fronte a questo no centralista abbiamo fatto per l'ennesima volta la figura di chi fa finta di occuparsi dei problemi del nord, fa finta di dare un po' retta a Chiamparino e ha fatto finta di occuparsi di Cacciari, che ormai si occupa di Montezemolo e del Terzo Polo, ma nella realtà noi restiamo centralisti, tanto per essere chiari del dibattito che ho visto in salsa PD. O invece Salvini, naturalmente con più responsabilità, visto il ruolo che ricopre al Parlamento Europeo e qua a Milano, come si fa a declinare in questo difficile passaggio tutta la forbice di atteggiamenti che restano all'interno del popolo della Lega? Guardi, chiariamo subito, se facessimo un ragionamento di convenienza di partito, alla Lega converrebbe andare a votare domani mattina, perché tutti i sondaggi dicono che la Lega stravince al no. Noi l'ultima volta abbiamo preso 3 milioni di voti, tutte le case di sondaggi ci dicono che ne prenderemo il doppio. Non mi interessa prendere il doppio dei voti, mi interessa costruire qualcosa. Come arrivarci? In due maniere: o con la rivoluzione o col faticoso cambiamento. L'Italia non mi sembra che sia pronta a una rivoluzione, se non quella del popolo viola ad Arcore per entrare a Villa San Martino, e quindi occorre faticosamente cambiare. Come? Mettendo insieme i pezzi di un puzzle. È chiaro che se ci fermiamo ad oggi, a questa mattinata di febbraio, e se il percorso del federalismo fosse quello che c'è a stamattina, non accontenterebbe nessuno. Però se io non metto il pezzo del puzzle di stamattina, non arrivo alla fine del prodotto. È chiaro che io da milanese, io ho da guadagnarci, come non come amministratore milanese, ma come cittadino milanese, almeno 200 milioni di euro all'anno a federalismo municipale vigente. Punto. E si fa fatica. E qua arrivo alla fine. È chiaro che i nemici del federalismo sono tanti. Perché il federalismo non è la moltiplicazione dei pani e dei pesci. C'è riuscito un signore 2000 anni fa, da un panino e da un pesce, a trovarne per tutti. Col federalismo, che è un diverso modo di gestire le risorse, qualcuno ci guadagna e qualcuno ci perde. Evidentemente c'è una parte del paese che o spende meno, o assume di meno, o aumenta le tasse. Mi sembra che a Roma, il comune di Roma ha un debito, pensate la follia, di 11 miliardi di euro. A Roma il sindaco attuale, per pagare i debiti dei sindaci precedenti, ha aumentato l'addizionale IRPEF, l'ICI sulla seconda casa, il biglietto del tram, eccetera eccetera. Col federalismo chi gestisce bene ci guadagna, chi gestisce male, diciamocelo, ci perde. E quindi è evidente che noi abbiamo scelto la via non della rivoluzione, figurarsi se a me la via catalana, la via scozzese, la via basca democratica non farebbe piacere. Ci mettiamo meno tempo, però l'Italia in questo momento ha bisogno di un pochino di tranquillità, e quindi come Lega vengo accusato da alcuni di voler dividere il paese e da altri di non portare a casa un fico secco. Però è 20 anni che facciamo fatica, faremo fatica ancora per qualche anno. Lo dico ai molti ascoltatori che hanno mandato molti messaggi dicendo: ma dovevate affrontare il tema se il partito lo deve prendere in mano Maroni, se il partito... No, io non ho voluto personalizzare, perché se una cosa ci ha insegnato, lo dico da osservatore, 20 e più anni delle vicende della Lega, che il tentativo di applicare le vicende partitico-personali di corrente, per così dire, come chiave di lettura all'interno della Lega, tipico degli altri partiti, voglio dire, ebbe non ha funzionato nemmeno negli anni in cui tutti si fregavano le mani dicendo: Bossi è morto praticamente e quindi la Lega è finita, e non ha funzionato. Allora, o vi rassegnate dall'esterno a questa particolarità, vi piaccia, non vi piaccia, la consideriate una caratteristica da movimento carismatico, questo affidamento al tra virgolette capo, che però alla fine è uno dei cementi e uno delle particolarità che rendono la Lega ancora sufficientemente diversa e ancora movimento più che partito rispetto a tutti gli altri della realtà italiana. Oneto, ma contano anche queste, insomma, parliamoci chiaro, c'è una parte dei leghisti che, al di là del giudizio di merito sul federalismo che esce da questi decreti attuativi e sulla via della responsabilità che ci ha appena riproposto Salvini, però dice insomma quel che troppo è troppo, e Berlusconi è davvero un po' troppo. Quanto conta secondo lei questa componente nel prendere la decisione finale se andare avanti con questo governo o se staccare la spina, Oneto? Ma quanto conti questa componente delle decisioni? Presto detto, credo zero, perché ahimè o per fortuna, secondo il mio punto di vista, la Lega è un partito verticista, per cui gli umori della base vengono ascoltati, sono consultivi come la bicamerina, però non sono, non valgono in termini di decisione. Quello che a me pare è che la Lega, per qualche ragione, possiamo magari ragionare sul perché, per qualche ragione sembri voler rinunciare ad un consenso molto molto più grande di quello che non abbia ora. Perché lei dice, in definitiva, rompere tutto e dire Berlusconi sei diventato insopportabile aumenterebbero ulteriormente in maniera incrementale nel nord i voti. Non solo, ma non è neanche necessario dire questo, dire semplicemente noi ci contentiamo, fra virgolette, di governare le nostre regioni e da qui ti condizioniamo in qualche modo. E certo, come la sul Tirolo e lo Spartano. Assolutamente. Non dimentichiamo che la Lega oggi prende circa 3 milioni di voti, è riuscita a prendere nel passato fino a 4 milioni. Ci sono, secondo me, molti milioni di padani che sarebbero disposti a seguirla. E allora, guarda, io ti devo adesso fermare perché è partito, mi tiro le orecchie per la pubblicità, vediamo se questa potrebbe essere una soluzione fino a questo momento imprevista nei sondaggi, che potrebbe aprire a livello nazionale oltretutto delle praterie per soluzioni che oggi non appaiono non solo in nessun sondaggio ma probabilmente nella testa di nessun politico. Vediamo, perché questa può essere una delle chiavi decisive per il post Berlusconi, che presto o tardi si aprirà in questo paese. Bisogna vedere se lo si apre solo per i magistrati o per politica, perché per politica si sta rafforzando Berlusconi in Parlamento. Questo è il vero paradosso finale, e ai miei occhi però la cosa che conta di più è che di risposta allo Stato ladro non ne vedo. Va bene, appuntamento a domani, grazie a Salvini, a Oneto, a Paragone, a voi tutti, Linea Giornale Radio.